parlate con un cinese o con un giapponese. Fin da tempo immemorabile i cinesi vengono presi in giro nel cartelletto, eccetera, perché non sanno di dire R, al posto della R dicono L. E perché? Perché sono deficienti? No. Perché nel loro sistema fonetico, nell'elenco dei loro fonemi, L ed R, che per noi sono due suoni diversi, riconoscibili, che quindi sono in grado di fondare una differenza di parole, per loro sono due varianti dello stesso suono. Ma come è possibile? L'R sono diversi per noi. Abbiamo l'orecchio allenato a distinguere tra L e R, come sono suoni diversi per noi O e E, o I e I, cioè due suoni che in tedesco per esempio si indicano con la O e con la U, con i due puntini, con la diesi sopra. Ma se in una lingua il suono per noi, che il suono E non esiste, ci vuole un po' prima di accettare che ci sia un suono E. E una volta che un tedesco ci dice Göring, io ho un amico tedesco che si chiama Jörg, che si scrive Jörg, ma sulla O ha i due punti. E si vive da molti anni a pescare. Dite voi quanta gente in Italia l'avrà chiamato Jörg nella sua vita? Praticamente nessuno, lui è chiamato Jörg da tutti. Da tutti, perché l'italiano non ha l'abitudine a distinguere tra O e C. Se sembra una variante strana di O, cioè ma che cazzo, di O, in realtà lo chiamo di O. E il coccolino ormai si è fatto la gratitudine e non si incazza neanche più. E mi incazzo io per lui quando vado a controllarlo, se tutti ci chiedono che hanno gli O, compresa la sua fidanzata con cui vive e abita da ormai più di 20 anni. Cazzo, ma pure tu, beh, ma chiamalo io, porco giuro, ma ti chiama così, ha diritto al suo nome, povero ragazzo. Ma chi mi sei caduto? Ma allora, LR, non sono deficienti. Non sono deficienti. Semplicemente non c'è una differenza nel loro sistema. Quindi, il sistema dei fonemi su cui una lingua è basata è un fatto culturale e quindi variabile. Non ha alcuna... Non c'è alcuna determinante biologica. Il sistema di fonemi non è questo per l'eternità, lo ha creato Dio, è così. Se anche Dio esiste, non si è preoccupato di stabilire un elenco dei fonemi accettabili. La biologia sì, se mettete insieme tutti i fonemi, cioè tutti i suoni che hanno una qualche rilevanza per tutte le lingue del mondo, scoprirete che la lista è abbastanza piccola, non più di una cinquantina, molto probabilmente. Però sono suoni che non sono presenti in tutti i sistemi fonemici, in tutte le lingue, però ogni lingua ha il suo. Bene. Detto questo, quindi, un sistema discreto, un sistema di segni che abbia carattere discreto e che sia fatto come il nostro, diciamo, linguaggio, è basato, come ci spiegò Saussure, su una serie di caratteristiche che adesso vi enuncio, ma che vi spiegherò meglio la volta prossima. Allora. Intanto è un sistema lineare. I segni del linguaggio sono costruiti in maniera solo delle sequenze. Sono dei segni elementari messi uno dietro l'altro. In qualche modo, con qualche modo. Secondo, sono segni arbitrari. È un sistema basato sull'arbitrarietà. Cosa vuol dire arbitrarietà? Vuol dire che non c'è nessuna caratteristica particolare che lega questo oggetto all'insieme di suoni sedia. Perché si chiama sedia? Perché sedia. in inglese lo chiamano share, in francese lo chiamano share, i tedeschi lo chiamano Stuhl, che bello, le singole lingue stabiliscono rapporti tra l'insieme dei suoni e l'insieme dei concetti, oggetti, azioni, totalmente arbitrari. Non c'è alcuna ragione per cui questa parola qui poteva essere bimbo, poteva essere mangiare, si poteva dire ravatus. Perché si dice mangiare? Perché per una serie di motivi arbitrari, arbitrarietà, linearità del segno, quindi arbitrarietà del segno. Terzo elemento, i segni non sono altro che sistemi basati su delle opposizioni. Opposizioni distintive, cioè opposizioni che sono in grado di stabilire delle differenze, ed è su questo insieme di differenze che si basa il linguaggio. La conseguenza è che non c'è nessuna sostanza nel linguaggio, non c'è nessuna ragione misteriosa per cui le cose hanno il nome che hanno, e per questo ci sono tante lingue differenti. Perché sistemi di pensiero, di nominazione, se non identici, perlomeno analoghi, possono portare a risultati linguistici differentissimi tra loro, enormemente differenti. Ma tutte le lingue sono basate sul sistema di opposizioni distintive. Ogni volta che io dico la parola italiana cane, io non ci penso, ma so che non ho detto pane, so che non ho detto rane, ok? Ho scelto delle parole in cui è diverso il primo suono consonantico. Che cosa significa il suono k? Che cosa significa il suono p? Cosa significa il suono r? Un bel cazzo di niente. Ma significa che io so che se uso k prima di una sequenza ane, ottengo un certo risultato, non quello che ottengo usando p, non quello che ottengo usando r. Se un inglese dice duck, sa che non ha detto dot. Questa volta è il finale. Anche qua è un'arbitrarietà, ma è l'opposizione tra la G e la T. Non è che tutte le volte che lui dice dot pensa anche a dot, non ci pensa. Non è che tutte le volte che noi diciamo cane pensiamo anche a pane, non ci pensiamo. Ma logicamente il nostro sistema è fatto in modo che è l'opposizione tra cane e pane, tra cane e rane, tra pane e rane, uso questo esempio, che definisce il linguaggio. Il linguaggio è, detto in altri termini, l'arbitrarietà del segno implica che l'unico modo per dare un significato all'insieme dei segni è quello di opporre una cosa ad un'altra, non quello di dire questa cosa è qualcosa. Pa, cane, non è un cazzo, cane non è niente, cane è una cozzaglia di suoni che significa qualcosa non perché ha il diritto, non perché ha delle proprietà intrinseche, cane, che vogliono dire quella, perché gli inglesi dicono dog, gli inglesi dicono share, che cazzo volete che abbia, non ha nulla di intrinseco. È l'opposizione della parola italiana cane a tutte le altre possibili, ho usato la prima posizione, che potete cane, che potete... potete fare tutti i segni che volete, cotto, dotto, con tutte le varianti. I linguaggi umani sono sistemi di opposizioni distintive e significanti. È l'opposizione distintiva tra i singoli suoni possibili che io metto insieme che dà significato all'insieme della produzione, diciamo, di questo. Approfondiremo tutte queste cose nella prossima, però già fin da ora voi già capite che se io costruisco una semiotica in modo che funzioni per il linguaggio, è molto difficile che la stessa semiotica funzioni anche per i sistemi di immagini. Sono troppo differenti i due, diciamo, sistemi. La semiotica del linguaggio, una linguistica, è una disciplina che deve dare conto di un sistema arbitrario, lineare, arbitrario, basato su posizioni distintive, in cui quindi, da un certo punto di vista, il significato primario è un gioco e tutto quello che io costruisco viene dopo. Sulla base del linguaggio si costruisce l'insieme dei significati sociali, delle pratiche sociali, tutto quello che c'è di pesante dentro un linguaggio. Tutto quello per cui, se io ti guardo con l'occhio incazzato, dico stronzo, per dire, la parola, tu ti senti colpito. È chiaro che nella parola stronzo, uno dice, ma e se io ti dico stronzo, perché quella parola è carica non solo di significati fonetici, ma storici, e quindi probabilmente anche di rapporti tra me e te, perché se sono arrivato a dire così che me ne hai combinate di quello, oppure io sono paranoico e che non capisco un cazzo, cioè sono tante ipotesi, ma bene, ma tutto quello viene dopo, tutto quello si è costruito sul linguaggio dopo. Nel sistema dei segni dell'immagine è tutto il contrario, tutto il contrario. Il significato delle scarpe del quadro di Van Gogh, che ci sono anche nella stanza di Arles, ma comunque quello delle scarpe, che è un quadro ancora più famoso della stanza di Arles, tutto ciò che dà senso a quelle due scarpe come segno di qualcosa viene prima di quelle scarpe, non dopo. La storia si stratifica, la storia e la cultura si stratificano sull'immagine dal di dietro, gli stanno dietro all'immagine, no? E la portano avanti e definiscono così il significato dell'immagine. Per il linguaggio è il contrario, il linguaggio sta davanti, no, il linguaggio sta dietro, l'immagine sta davanti e dietro di lei e dietro di essa tutto. Il linguaggio sta avanti, dietro. Ed è lui, ed è il linguaggio che è la precondizione, la condizione di base per la quale i significati sociali si stabiliscono. C'è già a priori del significato o contestualmente al significato sociale, c'è già una base di significazione linguistica che dà origine e che spiega e che articola tutti i sistemi di significazione successiva. Il linguaggio è certamente un prodotto della storia, ma è una precondizione di una civiltà. L'immagine è un prodotto della storia, ma è il risultato di una civiltà o di una, diciamo, cultura. L'immagine non ha e non avrà mai, per quanti cristi di cose uno possa dire, non avrà mai lo statuto così fondante che ha all'interno di una cultura, non avrà lo stesso ruolo fondante che ha il linguaggio. Il linguaggio ha un ruolo enormemente e indiscutibilmente più, come dire, fondante. Il linguaggio è il sistema di comunicazione che distingue l'uomo da altre specie animali di questo pianeta, ed è la precondizione sulla quale l'uomo ha costruito tutti gli altri rapporti sociali possibili. I rapporti sociali fra esseri umani sono in qualche maniera tutti rapporti linguistici, tutti. Non tutti i rapporti sociali sono rapporti iconici, ed è dubbio che l'insieme di rapporti che si possono costruire su di un'immagine abbiano la stessa qualità di quelli che si costruiscono su un linguaggio. La mia convinzione fondamentale poi è che tentare di costruire una semiotica delle immagini sia inutile, perché le immagini non sono sistemi di segni come lo è il linguaggio, se sono si disegnano caratteristiche totalmente differenti e quindi ci interessa poco di costruire qualche cosa su cui poi non potremo mai andare a fare il confronto, e la relazione tra immagine e parola si costruiscono e cercherò di fare di dirvi qualcosa su questo punto e non su altri. Si costruiscono certamente sul piano storico e su quello, diciamo, sociale. A livello della società sviluppata e della storia, sì che lì si può vedere come la parola e l'immagine interagiscono, ma la loro semiotica, se esiste una, come dire, semiotica di queste due cose, è non, come dire, non soltanto differente ma incommensurabile, non ha proprio terreni comuni di, se non quelli più generali di dire che c'è un significante e c'è un significato, ok? Ma questo di per sé non vuol dire un cazzo, perché la cosa importante, parleremo anche di significante e significato un po' la volta prossima, ma è la linearità, l'arbitrarietà e l'opposizionalità o no di un certo sistema. Queste qua sono le caratteristiche del linguaggio. Nessuna di queste tre caratteristiche si ritrova in nessun sistema di immagini. Le immagini non sono lineari, non sono giustapposte in una sequenza, non sono arbitrarie. Il loro significato è determinato da una serie di motivi storici, no? Faccio una spada in un certo modo perché è fatta così, perché c'è, no? Però l'immagine di una spada è determinata dall'oggetto spada, la parola no. La parola spada, sword e ve, che cazzo, sono parole qualunque, che vuol dire? Totalmente arbitrarie. E i sistemi di immagini non si basano su opposizioni sensitive, posso costruirle io, trovarle dopo, ma, no, ma non si basano su quello. Non si basano su quello. E al fondo, ragazzi, la ragione reale di fondo per la quale il sistema delle immagini è diverso da quello dei segni si basa sulle categorie concettuali e filosofiche diverse alle quali esse sono collegate. Un'immagine è un fenomeno spaziale. Un'immagine è qualcosa che occupa un certo spazio, bidimensionale o tridimensionale, quasi dimensionale, se sono marziani, che cazzo ne so. Occupa lo spazio, si estende, è quello che Cartesio chiamava la res extensa, ha a che fare con la materia. L'immagine è materia un po' sublimata a volte, molto schiacciata quando è un quadro, eh? Inesistente quando è uno schermo televisivo o un computer, ma ha l'apparenza di materia. Il computer cambia un po' le cose, infatti, per questo è l'unica ragione. L'immagine ha a che fare con lo spazio. Il linguaggio ha a che fare con lo spazio. Io vi ho assistiato oggi per 3 ore, ho parlato. Cosa ho fatto? Ho prodotto catene di suoni che duravano, che sono durati nel tempo, sono durati 3 ore, più o meno, con l'intervallo. E lo spazio e il tempo hanno delle relazioni tra loro, non c'è dubbio, figuriamoci, e va bene anche Einstein, che sono uniti, certo noto, poi tutto, insomma, però esperienzialmente noi esperiamo lo spazio in maniera diversa da come esperiamo il tempo. Li esperiamo sempre implicati l'uno nell'altro, ma sono due cose, diciamo, diverse. Una semiotica di un fenomeno spaziale non potrà mai essere la stessa cosa di una semiotica di un fenomeno temporale. E io dubito che un insieme discreto possa essere qualcosa di diverso da un fenomeno temporale. Ogni volta che voi simulate o costruite un sistema discreto nello spazio, questo è un sistema discreto spaziale, eh? Con 4 sedie, è vero, una diversa dall'altra. Ma nella nostra testa, come le vedete voi? Sì, il colpo d'occhio sono lì. Ma perché dite che sono una linea di 4 sedie? Sono una dietro l'altra. È il tempo che passa tra l'esperienza dell'uno e l'esperienza dell'altro. Spesso ciò che noi chiamiamo il colpo d'occhio è un'illusione. Noi crediamo di avere una visione olistica dello spazio entro certi limiti, c'è, ma è sempre un'esperienza temporale molto, molto, come si dice, molto rattrappita, molto compressa, che viene tutta in un istante, ma c'è sempre un po' di tempo. Il colpo d'occhio, lo sguardo d'occhio, ma in realtà le cose che facciamo poi sono fondamentalmente legate alla nostra esperienza temporale, senza il tempo non si... ci fanno fare. Il quanto è un fenomeno a che fare col tempo, l'immagine a che fare col spazio. Basterebbe questo, se lo comprendiamo bene, per capire che forse è una illusione pensare di poterli mettere insieme e pensare che non ci siano le scintille ogni volta che la parola e l'immagine si incontrano, anche se sono simili, se sono poi, no? Vivono piano piano per esempio quotidiana, però dal punto di vista dell'analisi. Va bene, mercoledì, che è il 4. Ma quando è che inizia io non ho gli orari? Io ho appena ora. Ma alle 2:30. Due, ah sì.